Credo che tutti i formatori abbiano fatto almeno una volta nella vita questo sogno. Poi mi dirai se è vero o no. Che vi trovate in una situazione come questa, avete più niente da dire, si è appannato tutto. Cioè, bianco, il visivo bianco, grigiastro, parole non ce n'è, l'incubo. Ma io ne ho fatto di peggio, di sogno. Di andare in un gruppo dove facevo l'attività che di solito funziona e le persone cominciano a guardarmi così. Un altro più benevolo mi guarda. Un altro con gli occhi stretti. C'era un po', diceva. Poi uno se ne va, un altro se ne va. Allora io cerco di seguirli per vedere dove vanno a finire, a tutti mi. E dice, questo momento prima o poi deve arrivare nella vita, perché come per un alpinista arriva il momento in cui, quando è abbastanza sicuro di sé, fa quello che non si aspetterebbe mai, improvvisamente si trova nel vuoto a volare e non sa dove sbattere. E se è fortunato non si fa male, se no si fa male. A me ci è capitato una volta davvero questa cosa. Mi trovavo a Medicina, a Genova, a facoltà di medicina, dove c'è un'aula fatta così, che è per alpinisti, però, ci vuole non avere senso delle vertigini, per andare su. Con Andrea Masotti, che è un musicoterapeuta, e altri, allievi molto più giovani di me, ci mettiamo lì per parlare. Dovevo parlare io? Bianco. Allora, gli passo la parola, lui parla tranquillamente. Perché mi era venuto bianco? Me l'ho scoperto dopo. Perché se io sto fermo, siccome io funziono col movimento, le parole non vengono più. Poi per questo mi vedrete muovermi, non perché c'è una particolare ragione, perché sto fermo, non mi si ferma il cervello. Abbiamo molti modi di apprendere, molti modi di essere al mondo. Avrete visto che mentre più o meno gli ornitorinchi si assomigliano, e anche i gufi, e anche i pipistrelli, forse perché non li conosciamo a sufficienza, forse delle specie viventi, quella che riesce a manifestare un massimo di diversità sono proprio gli esseri umani. Ma pensate che ci sono quelli che si divertono facendo la raccolta di monete antiche da un certo anno a un altro, e passano sabato e la domenica a guardarsi le monete e a lucidarle. Per qualcun altro fare un'attività così è assolutamente possibile. Qualcun altro invece si diverte a correre in salita col sole. Cioè, difficile capirla questa cosa. Qualcun altro invece si diverte nei modi più assurdi. Si studia delle cose, si studia il cinese in italiano, senza che ci andrà mai in Cina, ma si legge, si studia tutto il cinese, né ne parla con nessuno, chiuso in un ambito. Vabbè, poi ci sono altri infiniti modi di divertirsi, per dire che chi ha il compito di guidare una scuola è un compito impossibile, perché i ragazzini sono diversi. Cioè, sapete che la scuola è nata, dicono che è nata, mi dicono, io non c'ero, però mi dicono così, che è nata più o meno durante l'illuminismo, quella di oggi. Nell'illuminismo c'era il bisogno di creare dei lavoratori che sapessero leggere e scrivere. E allora cominciava la situazione industriale, cioè cominciavano non più a essere solo degli artigiani, ma le attività cominciavano ad essere ripetitive, pensate. E allora ci volevano persone che sapessero leggere le istruzioni, che sapessero parlare con loro. Insomma, hanno creato una scuola che assomigliava alle catene di montaggio. Si entra in un modo, si fa così, si fa così, si fa così, si fa così. Il problema è che i ragazzini sono tutti diversi. C'è quello introverso, c'è quello estroverso, c'è quello che apprende cinestesicamente, se lo tieni fermo non capisce niente, come me. Poi c'è quello che apprende in visivo, quello che apprende in uditivo, quello che apprende attraverso le parole, quello che apprende attraverso il disegno, quello che è portato per la musica, quello che è portato per la matematica. Einstein, a proposito, non era mica un granché a scuola, piuttosto scadente. Però ha dato buoni risultati, no? Ecco. Una delle caratteristiche della scuola che ho frequentato io è che se eri bravo in una certa materia non la studiavi più, perché ci riuscivi. Quindi ti dovevi occupare delle materie che capivi di meno. e che avevi più difficoltà. Io ho passato anni a studiare la storia e non mi entra manco con le martellate, perché nomi e fatti storici per me sono una difficoltà mostruosa, non ho la memoria posta. Quindi ho dedicato soprattutto tempo alla storia, con risultati spaventosamente modesti. Mia madre, che era insegnante di lettere, prima che io andassi a fare l'esame di liceo, gli viene in mente di interrogarmi. Non l'avesse mai fatto. Mi ha detto, ma tu di storia non sai niente. Ho detto, io l'ho studiata. Non mi entrava. In compenso, in fisica, ho fatto un ripasso, il libro l'ho ripassato tutto, 2 ore, tutto il tempo. Quindi ho dedicato soprattutto tempo a una materia in cui comunque non ne riuscivo a imparare un accidente di niente, e quasi nulla a una materia in cui ero portato. Così, grazie a questo tipo di scuola, mi sono poi iscritto a giurisprudenza, che era il luogo dove proprio ero meno portato di tutte le facoltà che ci sono. Inoltre la detestavo. Allora, quando poi mi sono risvegliato da questo incubo, a 24-25 anni, mi sono chiesto, ma cosa diavolo mi è successo? Nel frattempo stavo preparando l'esame di magistratura. Allora, vabbè, uno dice, vabbè, uno spostato come te c'è poche speranze. Vabbè, ma come me ce n'erano tanti altri. C'è mica solo io. Io ero portato per la musica e per la fisica, ho fatto giurisprudenza. Benissimo. A 3 anni ero abbastanza intelligente. A 6 un po' meno, a 8 molto meno. A 12 è entrato una scuola media, per carità, terza liceo doveva essere completamente stupido. Perché com'è possibile per me iscrivermi? Infatti mia nonna, che aveva fatto la quinta elementare, quando ha saputo che io mi ero iscritto a giurisprudenza, si è rivolta a mia madre, manco più a me, non si rivolgeva più. Cioè, diceva, ma scusa, ma com'è possibile che tuo figlio faccia giurisprudenza? Allora, se io ho frequentato una scuola, e tra l'altro una scuola eccellente, perché il liceo che ho seguito a Genova, tra l'altro è frequentato da personaggio che conoscete tutti, era mio compagno di scuola, Fabrizio De André, sapete? Frequentate esattamente la mia classe, era più anziano di me di 2 anni, ma proprio la stessa scuola. Era la scuola migliore di Genova insieme a un'altra, e soprattutto la classe che ho frequentato io, tutta gente svegliissima, gambissima. Allora, studiando una scuola in cui si ha livelli massimi come professori, come materie, eccetera, com'è possibile che una persona si conosca così poco da fare un errore così grave? Perché non è un errore da poco. Cioè, a seconda della materia che scegli, indirizzi poi la tua vita. Allora c'è da chiedersi, è una domanda che ci dovremmo fare quando andiamo a una scuola, ma questa scuola, a parte che imparerò qualche nozione, certo, ma serve anche a conoscere chi sono? Mi aiuta a capire chi sono? Mi aiuta a comprendere, no? Quali talenti ho, quali predisposizioni, quali interessi? Questa è una domanda che ci dobbiamo fare. Bene, questa sera farò una chiacchierata con voi, e quindi sarà rapsodica, passerà da un tema all'altro, non avrà nessuna pretesa di sistematicità, ma vedrete che i temi sono collegati tra loro. Ho iniziato con la scuola perché abbiamo parlato prima, e il tema di cui vorrei trattare con voi, scuola e comunità. Come la scuola si rapporta con la comunità più ampia, col territorio, e col tema di come la comunità è vista oggi. Perché forse siamo in uno dei periodi storici in cui la comunità, intesa in senso etimologico, è più in crisi. Siamo diventati soprattutto individui separati, scissi tra noi. E questo è un tema che mi piacerebbe condividere con voi, e poi parlare di cose che conoscete tutti, le problematiche che oggi rendono preoccupata la nostra vita, non senza senso, preoccupata. La corruzione che c'è oggi, la falsità, la bruttezza, perché questo tema di oggi di cui parleremo sarà proprio apri la scrigno della bellezza umana. Cioè, il finale sarà, ma noi siamo esseri tristi, poco predisposti alla felicità, predisposti alla frustrazione, alla depressione, all'ansia, alla nevrosi, alla litigiosità. Siamo homo homini lupus, cioè ci dobbiamo guardare uno in faccia là, diffidare di noi stessi, al punto da creare una politica in cui su nulla si va d'accordo. Oppure questa è una deriva perversa che ha preso l'umanità, ma che è evitabile, eh? È evitabile, perché questa è la domanda. Il tema quindi che tratteremo è anche, ma qual è la natura dell'uomo? Cioè è una natura corrotta, che ha bisogno poi di un Dio che venga e che lo salvi, perché come dice Heidegger soltanto un Dio ci può salvare, dice. Nella situazione della modernità dove siamo messi oggi, soltanto un Dio ci può salvare, c'è un miracolo. Siamo conciati così male, per cui se avete letto il libro di Michele Serra, qualcuno di voi l'ha letto l'ultimo libro di Michele Serra, Gli sdraiati? Beh, fa un resoconto sui giovani che è tremendo. Gli sdraiati sarebbero questa generazione, una parte della generazione giovanile, che sono svaccati. Si sdraiano così, al mattino, guardano la TV, mangiano due noccioline, ascoltano l'iPod, nel frattempo chattano con un altro ragazzo, con un'altra parte, vedono il computer, vanno a scuola quando ci vanno, se no dormono. Per cui Michele Serra a un certo punto, dopo aver portato suo figlio a fare una vendemmia, cercando di coinvolgere un'attività pratica e risvegliarlo, con dei suoi amici, tutti si alzano la mattina alle 6, vanno a vendemmiare, i due amici, lui, il suo figlio e un altro amico, si alzano alle 2 del pomeriggio e vanno per... Gli altri sono tornati, i più anziani sono tornati e stanno mangiando. E uno dei più vecchi dice, questa è la prima volta in tutta la storia dell'umanità in cui i vecchi vanno a lavorare, si alzano presto e i giovani dormono. Non c'è mai stato. Quindi se la guardiamo per certi aspetti, la società di oggi è brutta da vedere. Ho parlato oggi con Nicola che ha una condizione di scuola che, a parte che è evidente che lui è bravissimo, perché ci deve essere una capacità prodigiosa nel fare quello che fa, ma comunque forse anche su un territorio non del tutto degradato, perché ho parlato con altri dirigenti, con altri, continuamente ho a che fare con gli insegnanti e so che oggi la scuola sta vivendo una crisi drammatica. Sapete, mia madre era insegnante, andava a scuola, tornava a casa, era riposatissima. Ma se io dicessi a mia madre, che fosse viva, che ha, mamma, vieni qua, ti racconto cos'è la scuola di oggi, mi direbbe, vabbè, senti, mi stai parlando di un film dell'orrore. Ma lei andava a scuola, insegnava, tornava a casa, fine. Oggi chi va a scuola deve essere uno psichiatra, un pronto soccorso, deve essere capace di un raid improvviso nella classe vicina per salvare il collega che viene... Cioè, ma a cosa si chiede? Io direi, vabbè, io se per giustizia direi, va bene, si può chiedere anche questo agli insegnanti. Però allora direi, parlamentari, magistrati, quando prendete al mese 7-8 mila euro? Benissimo, allora gli insegnanti 18 mila, perché è infinitamente più difficile il loro lavoro. Io li conosco tutte e due e so che voglio dire, sarà faticoso fare un processo, non c'è dubbio, ma stare in una classe, in certe classi dura. Ecco. Beh, chi ha studiato l'argomento dice, beh, la scuola è uno dei luoghi in cui le contraddizioni della società si vanno a riversare. L'educazione, gli educatori si trovano in certe situazioni, sono difficilissime. Guardate, sono tra le persone meno pagate del mondo. Più fai lavori difficili, massacranti, meno sei pagato. Ci sono lavori che non richiedono grande impegno. Per esempio quello che ho fatto io, professore universitario, francamente, se anche non ti pagassero o ti pagassero poco per quello che lavori, certe volte andrebbe anche bene. Ecco. Ti pagano tanto. E non ci vedo giustizia in questo, dovrebbero pagare di più gli insegnanti. Gli altri si divertono, non hanno problemi di disciplina. decidono loro i programmi, si faceva tutto, no? Era una pacchia l'università, quando c'ero io, adesso non lo so. Allora, a un certo punto, dopo il 2001, sapete cosa è successo l'11 settembre del 2001? Torre Gemelle. Stavamo facendo un corso ad Assisi, mi ricordo che improvvisamente qualcuno ci chiamò nell'altra stanza e ci fece vedere che cosa accadeva a New York. Sembrava un film di fantascienza. Bene, mi vergogno di dirlo, ma io non riuscivo a capire cosa stava succedendo e non riuscivo a capire come mai potesse accadere una cosa del genere. Ero talmente ignorante, dopo aver studiato giurisprudenza, il conservatorio, psicologia e varie specialità. Ero di una tale ignoranza che non capivo nulla del mondo. Cioè non è che non ho fatto esami nella mia vita, ne ho fatti un centinaio. Ebbene, e non è che sono proprio più cretino dell'universo, più o meno vado. E mi sono chiesto, com'è possibile che io l'11 settembre mi sono risvegliato e ho detto, ma l'America non è quello che credevo che fosse, dopo come ha reagito. E di lì ho iniziato il periodo di recupero, no? Ero in condizioni disastrose. Insegnavo diritto costituzionale all'università. E di lì ho iniziato a studiare, ho letto un centinaio di libri sull'economia, sulla finanza, allora, e mi sono reso conto che quello che credevo era in gran parte sbagliato. Cioè quello che avevo studiato all'università non era sbagliato, non era errato in sé, è anche vero quello che studi diritto privato, diritto costituzionale. C'è un piccolo dettaglio che sono verità parziali, ti dicono solo alcune cose, le altre, quelle veramente importanti per la qualità della vita, non le sai. Ma questo vale anche psicologia. Studio psicologia, ho fatto 33 esami, nemmeno pochissimi. La psicologia ho iniziato a capirla dopo. Questi esami non mi sono serviti. Se non uno. Perché lì c'era un professore che era, non era solo un professore, era un terapeuta. Sistemico, faceva terapia familiare, quindi poi l'ho seguito nel suo studio, ho fatto formazione con lui e lì ho imparato. Ma fare 33 esami di psicologia non diventate niente, vi entrano di qua e vi escono di là. Poi fate l'esame di Stato, ma questo non diventi psicologo. Allora mi sono chiesto, ma l'università serve? Allora dovreste sapere che se prendete un qualunque ragazzo che si è appena laureato in giurisprudenza e gli chiedete qualcosa di diritto privato, non sa più niente. Sa qualcosa della tesi che ha fatto, ma del suo resto si è dimenticato. Quando io ho studiato per magistratura, ho dovuto riniziare da zero. E sembrava un altro mondo. Allora, però se ho stato 4-5 anni all'università, allora stiamo spendendo bene il nostro tempo quando studiamo in quella maniera lì? Cioè, è davvero intelligente studiare una materia separata dall'altra, come stiamo facendo oggi, tutto specializzato? Perché vedete, oggi uno può diventare economista studiando econometria, cioè lo studio matematico dell'economia. Ma una persona così di ecologia non sa niente, di psicologia non sa nulla. Ma l'economia ha a che fare o no con gli ecosistemi? Forse un po', eh? Okay. Ha a che fare con la psiche delle persone? Forse un pochino, ve lo dimostro subito. La crisi in cui stiamo passando adesso è una crisi di ristagno, di, si dice, depressione. E come stanno le persone? Se non stanno bene, sono depresse. Quindi c'è una equivalenza tra quello che succede nell'economia e quello che succede nella psiche. Ora, quest'ultimo anno mi sono dedicato veramente all'economia. L'ho fatto, sapete perché? Perché volevo avere, riprendere la stima di me stesso. Perché mi sono reso conto che ero così ignorante in questo settore che ho detto, ma io non sono un cittadino, perché io non capisco niente. Ora, vedete, la nostra Costituzione dice: l'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro, che non c'è più. Fondata sul lavoro, allora ci dovrebbe essere il primo posto, no? No. La sovranità appartiene al popolo, cioè noi siamo sovrani. È vero? Oggi? È vero? Siete sicuri? Ma quando mi sono reso conto, studiando come stanno le cose, che la sovranità l'abbiamo ceduta da quel dì, e come l'abbiamo ceduta, in che modo l'abbiamo fatto, e come i giornali ci hanno disinformato, come la televisione tutti i giorni ci disinforma di questi procedimenti, di come noi abbiamo creato un'economia talmente stagnante. Sapete che eravamo uno dei paesi più ricchi al mondo? Si faceva il G7 una volta, l'Italia è stato uno dei paesi che è cresciuto di più al mondo. Sapete che quando siamo usciti dalla guerra, la scuola italiana, bene, perché era importante? La scuola italiana ha fatto dei passi incredibili, perché usciti dalla guerra, noi come italiani avevamo una condizione culturale pari alla Tunisia. C'erano un popolo ignoranti, ma tanto, poco scolarizzati, molti analfabeti. In 20 anni la scuola italiana ha fatto un cambio straordinario. Siamo arrivati al livello dei paesi civilizzati. L'Italia aveva un'economia, era distrutta. Bene, nel 63, il boom economico, l'Italia aveva un livello di crescita incredibile, una capacità imprenditoriale straordinaria, che chi guarda la storia dell'economia dice: ma come hanno fatto? Avevamo imprese di Stato, imprese pubbliche che funzionavano molto bene, per quanto se ne potesse parlare male, che avevano settori centrali di eccellenza. Avevamo una piccola impresa straordinaria. Oggi ancora in Italia sono 4 milioni di imprese, di piccole imprese. Stavamo crescendo a una rapidità strepitosa. Poi cos'è successo? Ma com'è possibile? Ecco, ebbene, questa sera non vi parlerò di questo, vi parlerò domani sera a Novara probabilmente, e comunque c'è sul nostro sito. Mi sono preso l'impegno civile di studiare queste cose, per studiarle ne ho studiate in tanti, ma soprattutto di renderle così chiare che senza fatica le possiate imparare. Perché guardate, quando mi sono messo a studiarle, io sono abituato a studiare, ho fatto tanti esami, mi sono reso conto di quanto è difficile per chi è digiuno capire davvero come funziona l'economia, come funziona l'euro, cosa vuol dire l'austerity, cosa vuol dire inflazione, cosa vuol dire bilancia dei pagamenti, cosa vuol dire recessione. Sono tutte cose che ci riguardano tutti e riguardano soprattutto il futuro dei ragazzi giovani. Oggi voi sapete che i ragazzi giovani, almeno un certo numero, soffrono tanto, perché non hanno prospettive future. Il futuro, quando ero giovane io, era speranza di un cammino migliore. Adesso il futuro non è più una speranza, è una minaccia. Ma mettiamoci nei panni di un ventenne, al quale gli dici: guarda, devi studiare, fare questi studi faticosissimi, perché così poi... E l'altro dice: perché così poi cosa? Call center? E ci vado anche adesso. 400 euro al mese e poi 320 e poi 280. Me ne sto sdraiato sul letto, sai. Allora capisci, quando ero giovane io, ma chiunque si laureava con dei buoni voti, gli arrivavano delle proposte e delle offerte di lavoro. Provate adesso. Ecco. Perché mi sono occupato di economia? Mi sono occupato di economia perché molti dei nostri ragazzi perdevano lavoro. C'è una signora, nostra amica, che... bravissima segretaria, eccellente, chiuso uno studio di più avvocati che presso cui lavora, a un certo punto gli hanno offerto un lavoro alla fine della sua carriera. Sa 4 lingue, parla con tutto il mondo. Quanto gli danno al mese? 500 euro, fine carriera. E ho detto: ma basta, cioè questo è indegno. Allora, se vogliamo andare a vedere più in profondità, bisogna vedere cosa è successo al popolo greco. Il popolo greco, ad esempio, questo libro ve lo spiega. Libro di Tsipras. Chi è questo? Ci sono tanti libri che parlano del popolo greco, ma sapete che il popolo greco è in una situazione drammatica. La sanità, la scuola, gli stipendi, i tagli alle pensioni, i tagli agli stipendi, i licenziamenti, tutto questo è avvenuto per la questione del debito greco. Sono un dato, poi lascio perdere. Pensate che quando la Grecia è entrata in crisi, il suo debito sarebbe stato risanato con 80 miliardi di euro. 80 miliardi di euro. 80, scriviamo qua. 80 miliardi di euro, il debito andava a posto. Benissimo. L'Europa non ha concesso questo debito. Quanto hanno pagato gli stati europei per salvare le banche? Questo è il rapporto. Questo per salvare la Grecia non si è fatto. Questo per salvare le banche, questo si è fatto. 4.000 e passa, 4.500. Cioè sono state salvate le banche che hanno prestato i soldi a chi? Ai greci, agli spagnoli. Ma questi prestiti erano prestiti incauti, che le banche potevano ben sapere che erano pericolosi fare. Ora, in un sistema capitalistico, quando è sano, si sa che il creditore incauto ci rimette. Sono le banche che ci devono rimettere i soldi, non chi ha chiesto il prestito. Vi faccio un esempio molto semplice. Se voi andate a chiedere un mutuo, la banca cosa fa? Prima cosa. Dice, che lavoro ha? Quanti anni ha? Ha delle case? Ha degli altri rendite? E così via, fa un'indagine perché non ve la dà così a cieca, perché si assicura di poterlo, no? Di poter rientrare coi soldi. Perché le banche non hanno guardato questo? Le banche soprattutto del nord? Per una cosa molto semplice, perché sapevano che comunque non potevano fallire. Perché? Perché li avrebbero salvati gli stati, cioè noi. L'altro giorno ho sentito tra le varie balle che raccontano al telegiornale e alla radio una signora che chiama a prima pagina e dice: ma insomma, noi italiani basta pagare il debito del popolo greco, se hanno fatto tutti questi debiti che se la cavino loro. Quindi i greci, brutti bastardi, incapaci di lavorare, noi, anche noi piuttosto cadenti, siamo i maiali d'Europa. Ma almeno non aiutiamo altri maiali, insomma, no? Beh, aveva sbagliato tutto sta signora, non stiamo aiutando i greci, abbiamo aiutato col fondo salva stati, abbiamo aiutato gli spagnoli. Gli spagnoli popolo? No, le banche spagnole. Ah, bene. Ma proprio le banche spagnole? No, le banche spagnole perché avevano dei debiti nei confronti delle banche tedesche. Ah, bravi. Noi coi fondi salva stati abbiamo salvato la Deutsche Bank. Complimenti. Complimenti signora italiana, veramente furba. Complimenti perché ha capito proprio tutto. Lei si considera anche una persona di scarso livello di capacità economiche, si considera che abita in un paese corrotto, in un paese pieno di incapacità, mentre i tedeschi sono bravissimi. Allora, quando si raccontano balle sistematiche così e il popolo se le fa raccontare senza reagire, senza scendere in piazza, vuol dire che il popolo è stato ipnotizzato. Io mi sono occupato di ipnosi, sono esperto di ipnosi, ho fatto ipnosi ericksoniana, la pratico ancora, e vi assicuro che per bersi simili stupidaggini bisogna dire che siamo entrati in uno stato di ipnosi profonda. Ok, per uscire dall'ipnosi conviene informarsi, e questo è il tema che vi butto lì, informarsi, speriamo di presto, perché il compito che vi affido anche a voi, perché abbiamo uno staff è molto impegnato in questa direzione, di fare presto per portare sul sito internet una sequenza sull'economia che vi consenta, chiunque di voi voglia farlo, in un paio di settimane a capirci qualcosa, perché credo che questo sia un dovere darmico da parte nostra. L'obiettivo che abbiamo, l'altro, è di riunire gli intellettuali migliori che troviamo, gli economisti migliori, per poterci dare una mano in questa direzione, perché tutti avete diritto all'informazione, diritto fondamentale, a non essere imbrogliati dai giornali e dalle TV che, come sapete, non sono libere. Perché non sono libere? Perché non siete voi a pagarlo, sono gli sponsor, e sponsor sono le grandi istituzioni finanziarie. Quindi quello che sui giornali viene detto non può dispiacere le grosse istituzioni finanziarie, c'è vita da fare. Siccome oggi viviamo in una dittatura finanziaria, cioè non siamo più sovrani, ebbene, per poterne uscire, che la popolazione sappia queste cose. Perché quando tutti le sappiamo, loro non possono più agire così. Noi dobbiamo agire sulla politica in modo che non ci possano più prendere in giro. Questa è la prima parte. Allora, vi ho parlato che siamo stati ipnotizzati. Ma non è la prima volta. Gli esseri umani sono facilmente ipnotizzabili. Tutte le dittature usano l'ipnosi. L'ha usato il nazismo, l'ha usato il fascismo, l'ha usato il Stalin. L'ipnosi collettiva è stata studiata benissimo negli anni 20 in America, dove la società americana è cambiata in breve tempo. Sapete, usciti dalla Prima Guerra Mondiale, gli americani erano fondamentalmente persone parsimoniose. O erano proprietari, o erano produttori, o erano lavoratori. Ma nessuno di loro spendeva soldi se non per necessità. Tendevano a essere piuttosto risparmiatori. Ora, l'industria americana in tempo di guerra si è espansa, ha riempito i magazzini di prodotti e dopo la guerra ne preoccupati dove li mettiamo adesso? Avevano bisogno di generare nuova domanda interna. Bisognava che gli americani comprassero di più. E allora gli industriali sono rivolti a due personaggi importanti, che era un nipote acquisito di Freud, che si chiamava Edward Bernays, e l'altro invece era un autore molto riconosciuto in America, che era Lippmann, e insieme questi hanno fatto un progetto per favorire il passaggio dall'America dei bisogni, cioè io compro qualcosa, mi compro questa seggiola, perché ne ho bisogno, se si rompe ne compro un'altra, ma finché funziona la uso, per passare all'America dei bisogni, all'America dei desideri. Ho questa seggiola, la confronto con la tua che l'hai comprata l'altro ieri, devo comprare questa la butto via, compro questa qua. Un mese dopo vado da lei, c'è un'altra. Quindi i beni di consumo, quelle cose che si comprano non perché servono, ma perché ti fa piacere andare incontro alla moda. Quindi inizia il consumismo americano. Per fare questo il popolo americano ha dovuto cambiare mentalità. Per cambiare mentalità si sono occupati dei psicologi di grande capacità, di cui Bernays e Lippmann avevano la dirigenza. Quindi che cosa hanno scoperto gli industriali americani? Che era possibile convincere le masse a cambiare mentalità. Quindi è nata l'industria del consenso. E questo è un tema straordinario che nel nostro sito è ben esplorato. Sapete chi ha approfittato di questa industria del consenso, di quello che avevano imparato gli americani, chi ha imparato a fare la stessa cosa? C'è un signore che abitava in Germania, che si chiamava Goebbels, il quale si innamorò delle teorie di Edward Bernays e disse: ecco quello che ci vuole. Lui così acquisì il ministero della propaganda e riuscì e disse a Hitler: io posso convincere i tedeschi di qualsiasi cosa, dimmi che cosa li vuoi che li convinca e sono capace. Quindi l'industria del consenso era messa a posto. Ora, capite bene che lì gli psicologi hanno lavorato molto bene, hanno cambiato la mentalità delle persone. Ecco, adesso arriviamo al punto che ci interessa di più. Scuola e comunità. Dunque, perché si è cercato di cambiare la mentalità al popolo americano e farlo diventare dei consumatori? Ma per sostenere l'industria, questo sì, va bene. Ma poi c'era un'altra ragione. Vedete, c'era un'idea che circolava tra alcuni intellettuali americani che la democrazia fosse molto, molto pericolosa. Molto pericolosa. Perché le masse sono suggestionabili, perché gli istinti umani, quando gli stati umani sono in massa, possono regredire agli stadi più primitivi, possono diventare tremendamente distruttivi. A questa teoria dete sostegno anche, senza volerlo, certamente, la visione freudiana, no? Degli impulsi umani, delle fondamentali due impulsi umani che sono sesso e aggressività. Guardate un po' la pubblicità su cosa si basa. Quasi tutto su questo. Quindi impararono che la pubblicità significa far sognare, immaginare che un prodotto, no, acquista un significato simbolico, non è più una macchina, è qualcos'altro, è il mezzo per conquistare una donna. Capisci? E quell'orecchino non è più un orecchino, un orecchino è un mezzo per diventare ammirata da tutte da tutti, e così via. Quindi si è imparato a fare la propaganda. Vi ho detto che una deriva è il consumismo americano, un'altra deriva è stato il nazismo, e poi di cui ha approfittato anche, ovviamente il fascismo non era proprio incapace anche in questa direzione, qualcosina sapevano fare anche loro, e anche Stalin. Bene, la cosa importante che nasce da allora e si rinforza sempre di più è che con il consumismo si è voluto togliere agli americani l'interesse per la politica. Vai al supermercato, goditi i beni di consumo, delega ai politici quello che è il loro mestiere, perché loro aiutano l'industria a fare in modo che ti costruisca i mobiletti e i televisorini che ti piacciono a te. Quindi di politica non ti interessare più. Quindi tutto questo è servito a rendere la partecipazione democratica praticamente possibile. Ora, se noi vediamo dagli anni 60-70 ad oggi, la partecipazione alla politica è diminuita grandemente. Ma non solo la partecipazione alla politica, è cambiata proprio la mentalità delle persone, sono diventati più individualisti, cioè ognuno per sé. Fine anni 70 sono gli anni di Reagan e Thatcher, la svolta neoliberista. E una delle frasi tipiche della Thatcher era: non esiste la società, esistono gli individui. Lo Stato deve sparire. Lo Stato sociale non ha senso. Non avete bisogno di stampelle, siete intelligenti, il mercato vi consente di arricchirvi, giocate in borsa. In quel periodo cominciarono i nuovi strumenti finanziari e le persone cominciarono a indebitarsi. Allora, un sistema economico dentro cui siamo oggi sembra costruito apposta per generare individui separati, che pensano ciascuno a loro tornaconto. Io mi compro la mia macchinina, compro i tappetini nuovi, la televisioncina al plasmon, la casettina che piace proprio a me, me ne vado a sciare con la nuova tutina, ecco, poi se vuoi venire bene, ma se io ho la mia tutina, la mia casetta, l'appartamentino, appartamento, questi sono diventati i valori di oggi. Una volta esco dall'università e guardo due ragazze, due studentesse, che erano davanti a una vetrina così. Non gli usciva la bava perché erano giovani, ma se no... Allora mi avvicino per vedere qual era il portento che guardavano. C'erano delle scarpe, normalissime. A un certo punto vedi i loro occhietti che vanno su scarpe più o meno come le tue, con una piccola differenza, che ci avevano una cucitura così, così e così. E sotto c'era scritto 280 euro, sconto 40%. E una dice all'altra: mai visto, che occasione. Erano uscite da psicologia. Se vi capita qualcosa diventano i vostri terapeuti, questi qua. Oppure erano usciti da scienze da formazione, i insegnanti dei vostri figli. Guardate, questo testo di Bernard Swim dice: prendiamo i nostri figli, li teniamo al buio, accendiamo la TV. Non ci sono programmi, c'è la pubblicità. La pubblicità è il racconto cosmologico dei tempi moderni. La pubblicità, in forma molto sintetica, senza fatica, ci dice tutto ciò che conta. Ci spiega la natura dell'universo, la natura dell'essere umano consumatore. La natura ci dà dei modelli di riferimento a cui ambire. La natura dell'universo qual è? Un deposito di materia prima. La natura dell'essere umano? Trovare un lavoro e comprare delle merci. L'uomo ideale? Uno che a bordo piscina ride mentre sorseggia una Pepsi. Questa è l'educazione più importante che riceviamo, perché la pubblicità è costruita non dai fessacchiotti, non è costruita dai psicologi che vanno all'università e prendono le laurette piccole e poi cercano di sbarcare lunario con 5 euro all'ora con i primi pazienti. Ma sono quelli pagati milioni di euro, che sono quelli che sanno come si fa a mettere sul commercio un nuovo cioccolato assolutamente uguale a tutti gli altri per farlo vendere 10 volte di più. Ora capite che ci siamo ridotti così. Cioè noi stiamo spendendo una marea di soldi, no? Per mettere una etichetta, un cioccolato che cambi il consumo di quel cioccolato lì. Cosa vuol dire che siamo? Non è che andiamo a mangiarlo, sono uguali. Li fanno tutti nella stessa fabbrica. Mi ha parlato uno che fa quello, quello, mi dice: guarda, la fabbrica è sempre quella. Ci mettono le cartine diverse. Le cartine. Allora uno lo vendono a 2 euro, allora lo devi mettere di più 3 euro, perché se no non te lo compri. Profumi. Ho parlato con gente che si occupa di queste cose. Se tu vendi un profumo, mettiamo, lanci un profumo nuovo, 12 euro, te lo compra nessuno. Fanno uno studio con questi grandi psicologi, alla fine dice: guarda, lo devi vendere a 57 euro. 57, sì. Lo vendi a 57 euro, va a ruba. Ma, allora scusate, ma abbiamo perso senno, eh? Cioè, ci guidano come burattini, siamo palline da flipper, eh? Guardate che quando noi entriamo in un supermercato, ci sono degli studi hanno imparato benissimo come si fa, vedendo l'inseguimento visivo, queste cose qui, con delle macchinette normalissime di studi, sapere dove vanno messi i prodotti perché vengano venduti di più o di meno. Se li metti questo colore, ottieni questo. Cioè, noi come esseri umani ci riduciamo così. Non a dire: faccio uno zucchero buono, l'ho fatto, basta, non mi occupo più, lo zucchero c'è, te lo mangi, è fine. No, ne devo vendere un po' più di te, anche tu fai zucchero, vero? Benissimo, ne voglio vendere un pochino più io. E il cervello umano va per studiare come faccio a vendere un po' più di zucchero uguale al suo. Ma poi ci stupiamo che i ragazzi stiano sdraiati, ma perché dovrebbero vivere in un mondo così? Non sono mica stupidi completamente i ragazzi giovani. Si chiederanno: ma cosa siamo venuti a fare in questo cacchio di mondo? C'è una cosa che è bene evitare, è di sottovalutare l'intelligenza dei bambini. Io mi ricordo, sono stato bambino, sono dei pochi che si ricorda, ma tutti quelli con cui ho parlato che si ricordano sanno benissimo che un bambino a 3 anni è piuttosto sveglio. Non è una bamboletta di cretina. E quindi a un bambino di 3 anni bisogna rivolgersi con certo rispetto, perché capisce le cose. Spesso molto meglio degli adulti, soprattutto le faccende relazionali. Allora, se noi da adulti ci riduciamo così, ma come fanno i bambini ad aver stima di essere adulti così? Su, guardiamoci in faccia. Ma non è possibile. Se abbiamo dei politici come abbiamo, no? Ma sapete, ma ci sono delle cose che se vi dico, ma sapete anche voi. Ne dico una per tutte. Monti va a dichiarare tranquillamente alla BBC che il suo compito, per cui è diventato governatore, è salvaguardare i creditori del Nord. Lo dice. Ma l'Unità, il 13 novembre 2011, cos'era? Fa una, ce l'abbiamo sul computer, una pagina grande così con scritto Liberazione. Caduto Berlusconi, caduto il nemico, finalmente andiamo in mano a Monti. Avete visto cosa è successo? Ora, quello che ha fatto Monti è giustissimo dal suo punto di vista, ed è giustissimo dal punto di vista delle banche del Nord. È perfetto. Ma forse dal vostro no. Cioè, avete visto come si è impoverita l'Italia? Ma pensate che fosse difficile prevedere questo? Beh, era ovvio, eh? Ma proprio ovvio. Non puoi mettere moneta. Ti metti in una situazione come quella dell'euro. Non puoi emettere moneta. E va bene. Non puoi fare debito. E va bene. Lo Stato non può spendere. Come fa a ripartire l'economia? Mettendo più tasse? La domanda diminuisce, ma se diminuisce la domanda, un economista che ha studiato 15 giorni lo sa che lo Stato si impoverisce. E quando ti sei impoverito? Beh, se lo scopo è quello di ridare i soldi ai creditori, abbiamo raggiunto. Perfetto, complimenti. Signor Monti ha fatto un ottimo esercizio. Bravo. Ma la cosa impressionante è che il giornale, credo fondato da Gramsci, scriva Liberazione. Allora lì ti chiedi, ma dove siamo finiti? Ecco. Adesso cambiamo completamente, perché queste cose mi prendono, perché sono ancora immerso nello studio di questa roba qui. A volte ci sto anche male, perché faccio fatica a capirla, poi finalmente l'ho capita, cerco di dirla ai miei collaboratori, i quali cercano di scappare lontano quando gliene parlo, più veloce possibile. Ma adesso sono passato un ferramenta, qui ho preso le catenelle e non li libero finché non studio. Perché non è manco giusto, che sono più anziano e lo fa ammazzo così e loro no. Perché tutti dobbiamo capire l'economia, vogliamo poi insegnarle agli altri, ed è l'unico che la sa. Io dovrei smettere sto microfono e dire adesso vai avanti tu. Oggi la priorità assoluta è l'economia. Ma oggi l'educazione, ma quale educazione se domani non mi manco più soldi per la luce alla scuola o per il riscaldamento? Volete sapere come è andato in Grecia? Eccolo qua. Di sapere cosa è successo? Bambini che svengono a scuola perché denutriti. Persone che vanno agli ospedali non trovano medicine. E sapete cosa succede a queste persone? Sapete cosa succede alle persone che non hanno più la sanità? Vediamo. 98. Ecco. Vabbè, glielo dico io. Non lo trovo. Si sentono dei falliti loro. Non dicono siamo stati imbrogliati, in primo luogo dai loro politici, perché è stata una cosa tremenda il primo ministro greco cosa ha fatto. Ma lasciamo perdere. Ma loro come popolo non hanno colpe. Ma si sentono falliti perché la sanità non funziona. Si sentono impotenti, falliti, e quindi guardate cosa? Guardate qua. Ecco, il simbolo che usiamo noi è questo qua. Così, depressi, l'energia vitale sotto le scarpe. Ma che colpa ne hanno se la sanità non funziona? È colpa loro? No, è colpa dei corrotti, che erano le loro leadership, ed è colpa dei corruttori, che erano quelli che oggi vengono considerati grandi, onesti, bravissimi paesi del nord, ok? I corruttori. Ora, questa popolazione tradita si sentono dei falliti loro. Ma cosa vuol dire questo? Un tempo non sarebbe andata così. Questi, anziché fare così e così, la scuola, persino la Chiesa ortodossa greca, che non ha l'impatto che in Italia la Chiesa cattolica, persino quella Chiesa, dice, il popolo è corresponsabile perché ha speso troppi soldi e quindi stiamo pagando per quello. Tutti lì a sbattersi il petto. Ma sapete una volta cosa sarebbe successo? sarebbero scesi tutti in piazza e avrebbero denunciato i criminali che li hanno portati in questa. Perché non so se lo sapete, la Siemens, che ha corrotto i funzionari greci, è una delle società al mondo più corrotta che ci sia, ed è tedesca. È stata condannata a un tribunale americano con patteggiamento a 2.500 miliardi di dollari, perché se no gliene davano 5.000. I tedeschi così sempre, proprio sempre perfettamente, no? Così onesti. La Tiffen Group la conoscete anche da quello che è successo qui in Italia ed è una delle società corruttrici del sistema greco. Allora, la Grecia, il popolo greco, popolo, purtroppo popolo greco, popolo tedesco, non c'entra, sono i dirigenti che contano, sono stati dei criminali. Però il popolo una volta reagiva, e infatti c'è una bellissima lettera di Mikis Theodorakis, per chi si ricorda Zorba il greco, quella musica, è un compositore di musica, il quale ha 87 anni, gira ancora il mondo e fa una lettera al popolo greco, dicendo, guardate, sotto l'occupazione fascista e nazista io sono stato in carcere e sono stato anche torturato. So che cosa vuol dire la resistenza e so che il popolo greco è in grado di fare resistenza. Allora ce l'abbiamo fatta contro un'oppressione spaventosa, tedesca e italiana, nei limiti che era in grado di fare. Ce l'abbiamo fatta e abbiamo costruito un comitato di liberazione e di solidarietà. E ci siamo tolti dal gioco di questi qua. Oggi il popolo greco non è in grado di fare niente, sono inermi. Io ho 87 anni, non tocca più a me fare questo, tocca ai giovani. Perché i giovani non lo fanno? Molto semplice. Perché la TV, i giornali, quelli che fanno le opinioni, informano questi che la colpa è la loro. E questi cosa fanno? Ci credono. C'era un'unica TV in Grecia che era libera. Sapete cosa fanno? L'hanno fatta chiudere dicendo che era piena di debiti. Non lo era. Era come la RAI italiana, no? Come TV, era TV di Stato. L'hanno fatta chiudere perché era l'unica che dava le notizie a questi poveri disgraziati. Tutte le altre sono TV private che bombardano i greci con questa storia. Che il popolo greco era corrotto, che il popolo greco viveva al di sopra delle sue possibilità, che il popolo greco lavora poco e così via. Capite? Allora, un popolo che si fa prendere così in giro, no? Dai mass media che sono guidati da chi? Sempre soltanto dal potere di questo, dei soldi. Oggi coi soldi si fa tutto, compreso poter convincere un popolo che sono un branco di cretini e di incapaci. Ecco, allora io credo che per tutti coloro che hanno più di 20 anni, 22, 25, qualcuno qui in sala vedo che c'è, si deve porre la domanda di chi viene dopo. Ecco, ma insomma, ognuno di noi deve dire, ma chi viene dopo? Che mondo gli lasciamo? Un mondo in cui le informazioni vengono date da questo? Che attraverso questo qui passa direttamente nella testa delle persone, questo vogliamo, ma questi li sappiamo chi sono? La Goldman Sachs, la Lehman Brothers, la Bank of America, la Deutsche Bank, questi? Ecco, sono loro che oggi guidano l'agenda politica dei nostri paesi, e sono loro. Non è più una democrazia, è una plutocrazia, cioè è una società guidata dal potere del denaro. Attraverso il denaro si compra la politica, attraverso il denaro si comprano i mezzi di informazione e la cosa più grave è che attraverso i mezzi di informazione si compra il consenso delle persone. Ecco perché oggi è difficilissimo uscirne fuori. Per questo che fra un po' non avrò più nessuno intorno, loro stanno ancora un po', ma poi andranno via da casa mia. Perché si renderanno conto che la via è molto difficile, cioè si tratta di fare come hanno fatto i partigiani. Non si tratta di andare sui monti, possiamo vivere in una casa comodissima, siamo molto fortunati, però ci vuole un impegno serio qua. perché per riuscire a prendere delle persone che credono a questo, fargli cambiare idea, ha voglia se ce ne vuole. Noi siamo tutti, crediamo tutti che il problema dell'Italia sia il debito pubblico, ma ci hanno fatto credere fino all'infinito, prima di far cambiare idea ce ne vuole. È però l'unica cosa che c'è da fare. Tutti gli economisti che ho conosciuto oggi, che ho frequentato, mi dicono tutti la stessa cosa. L'unica possibilità di uscire dalla situazione di crisi che sta andando verso la situazione greca è quella che il popolo diventi competente, sappia che cosa sta succedendo. Allora nessun politico lo potrà più prendere in giro in modo assolutamente vergognoso come sta succedendo oggi. Io non posso più ascoltare né la televisione, perché la televisione viene tutta da qua, continuamente. Ecco. Va bene, questa era la prima parte. Adesso passa la seconda. La seconda parte è... Dunque, è chiaro che siamo predisposti come esseri umani anche a fare questa fine, cioè a essere completamente plagiati. Però questa non è la nostra natura, attenzione. Noi come natura, come potenzialità, siamo ben altro. Tutte le grandi tradizioni sapienziali, tutti i grandi maestri del mondo, non importa se induisti, buddisti, taoisti, del Sud America, del Nord, qualunque parte del mondo, cristiani, musulmani, tutti ci dicono una cosa, che noi fondamentalmente... siamo divini, ci abbiamo una scintilla divina dentro, potenzialmente, non attualmente necessario, perché ci sono persone che non la sviluppano. Abbiamo anche quindi due possibilità, uno sviluppare questa scintilla divina, che vuol dire, le cose di cui parlava Andrea, al top del livello, le qualità dell'essere, dell'amore, della generosità, della dedizione alla verità, della bellezza, armonia. Tutto ciò che rende la vita ricca, piena di significato. Se io potessi chiedere a ciascuno di voi, ma tu cosa vuoi dalla tua vita? Cosa vuoi di meglio di quello che hai adesso? All'inizio mi direi, vorrei cambiare macchina. Sì, vabbè, qualcosa di più di quello. Ma vorrei avere un lavoro. Ok, ma ancora più importante. Veramente più importante, ma tutte la risposta è una sola. Io voglio avere una vita più felice, più ricca, più piena. E penso che, se voi vi ricordate quando vi siete innamorati, vi sarà successo, prima o poi capita sta disgrazia, renderete conto che quello che avete vissuto in quel momento è impagabile. Cioè ditemi francamente, ma voi preferireste un aumento di 200 euro o un altro tipo di aumento? Quando tornate a casa, questa sera, chi vi accoglie, vi guarda negli occhi e vi dice, io ti amo profondamente. Tu sei l'uomo della mia vita, tu sei la donna della mia vita. Ti ho scelto e per me tu sei la cosa più bella che ho mai visto. E mentre dite questo, magari si avvicinano due bambini che vi abbracciano e sorridono. E i bambini... vi guardano con occhi pieni di riconoscenza perché siete i vostri genitori, i loro genitori. Quando chiedete, bimbi, adesso andate a letto? Loro dicono, certo papà, certo mamma, e ci vanno. E quando al mattino li andate a chiamare, si alzano perché? Perché vi vogliono bene. E se gli dici, guarda, è bene che tu studi, vabbè papà, faccio. Perché? Perché vi vuole bene, perché vi stima. Pensate che al mattino, quando il bambino sta per andare a scuola, un po' gli dispiace, perché sta talmente bene con voi, che non ci vuole andare. Però, d'altra parte, appena esce di casa è anche contento, perché non vede l'ora di essere a scuola. Ma perché mai non dovrebbe essere così? Se ci sono dei veri insegnanti e delle vere scuole, ma per un essere umano, non traumatizzato, non violentato da piccolo, non abusato, una scuola che insegna cose utili alla vita è il luogo più piacevole del mondo, che è in grado di capire i bisogni del bambino, che è in grado di nutrire la mente di un bambino, ma i bambini sono curiosi, diceva che quando mi ha detto che sono curioso, ma semplicemente perché a me è rimasto l'aspetto bambino, cioè io sono rimasto come quando ero piccolo, cioè non mi è cambiato niente la mia testa, cioè, posso giocare come col meccano come era qua a 3 anni, cioè, non, cioè mi occupo anche di altre cose, ma lo faccio con quello spirito, capisci? Ecco. Quindi a scuola gli insegnanti potrebbero essere persone che non vedono l'ora di andarci anche loro, perché loro hanno la loro famiglia, però vanno a scuola e incontrano dei meravigliosi bambini che non vedono l'ora di imparare. Che c'è di strano? È strano il contrario, perché guardate, il cervello umano è fatto apposta. Se c'è qualcosa che, così quando avete fame, vi fa piacere mangiare, certo, ma il cervello c'ha sempre fame. C'ha fame di stimoli nuovi, di cose nuove, interessanti. Chiaro che se lo drogate con la TV, il cervello non funziona più così. Se lo drogate con le PlayStation, non funziona più così. Ma un cervello che viene educato bene, ma non c'è niente di più bello per un bambino apprendere, imparare. Tra l'altro ha una facilità prodigiosa rispetto agli adulti, perché le connessioni a quell'età si formano molto di più. Quindi non c'è niente di strano che un bambino sia curioso. Il problema non è il bambino, il problema è sempre l'educazione che riceve. E lì si apre un tema che è doloroso a volte. Dice, ma allora vuol dire che io non sono stato un buon genitore? Ai ai ai, mi sento male, tu mi fai sentire in colpa, brutto cattivo. Guarda, mai direi una cosa del genere a nessuno. Nessuno cattivo genitore. Tutti i genitori sono il meglio che possono fare. Non è un problema di genitori singoli, certo un po' di più, un po' di meno, ma quello i figli sono in grado di reggere. Il problema è quello che c'è dopo. Molti genitori oggi sono preoccupati quando i bambini hanno 3 anni di mandarli all'asilo, e soprattutto poi alle elementari, soprattutto alle medie, perché magari sono bambini anche che sono carini, graziosi, quando vanno a scuola tornano a casa che non sono più quelli. Cosa gli è successo? Prima erano così aperti, gentili, dopo diventano aggressivi, duri, violenti, spietati. Ecco, allora, quello che diceva prima l'amico Nicola, vedete qua c'è la famiglia, ma la famiglia non è mica isolata, Vive in un campo che è fatto da la famiglia allargata, dai conoscenti, dalle persone che la famiglia frequenta. Ma questo gruppo primario, chiamiamolo come volete, non è mica isolato, sta all'interno di un villaggio, di una casa, e questo qui non è, sta all'interno di qualcosa di più grande. Quindi la famiglia riceve continuamente sollecitazioni da tutte le parti. È il bambino che dentro la famiglia riceve sollecitazioni dai genitori e da tutte le cose che ci sono intorno. Ora, in Africa si dice un bambino viene allevato da un intero villaggio. Questa è la verità. Purtroppo recentemente sui genitori è caduto un peso quasi insopportabile. Due genitori in un appartamento devono allevare un bambino. Ma il cervello umano non si è costruito così. 200.000 anni di storia che avrà l'umanità, mai è accaduto questo, perché nessuna famiglia da sola sarebbe sopravvissuta, nucleare, poteva. Erano sempre gruppi di 25-30 persone, dentro un gruppo più alto di 150, quindi un bambino conosceva regolarmente 25 persone intorno e altre 150 più o meno, così si è formato il cervello. Quando due genitori vogliono supplire a tutto questo ben di Dio di relazioni umane, non è facile. Adesso dirò qualcosa di più sulla struttura profonda dell'individualismo da una parte e della visione invece comunitaria che è più vicina alla natura dall'altra. Dunque, la prendo è in questo modo qua. Guardate, qui c'è un cursore. Questo potremmo chiamare il cursore del livello evolutivo umano. Se qui ci mettiamo un gatto quando è piccolo, e poi il nostro pronostico, sai qual è? Che dopo un po' lo troveremo qua. È diventato grande, adulto, ha sviluppato tutte le sue potenzialità. Se qui ci mettiamo un essere umano, è molto probabile che dopo 20 anni, se va bene, si trova qua. E tutto questo non lo fa. A 30 si trova qua, 40 qua e poi si ferma. E tutto questo non lo conosce. Cos'è tutto questo? È un cammino evolutivo che l'essere umano può fare ma che interrompe. Come facciamo a sapere che è così? Beh, ce lo dicono i grandi maestri tutti. Naturalmente qui posso solo procedere per enormi semplificazioni. Se andiamo a vedere cosa ci dice la sapienza antica e moderna, ci dice che chiamiamo questo livello animico, il livello della scintilla divina, dove noi diventiamo il nostro potenziale realizzato. Chiamiamo questa umanità realizzata. La famiglia che vi ho descritto prima, i cui bambini si comportano così, e i genitori, è una famiglia realizzata. Cioè una famiglia normale. Non è strano, è normale. Cioè che in una famiglia non si litighi e che ci si capisca e che ci sostenga, è normale dal punto di vista dell'evoluzione umana. La maggioranza delle famiglie ha al suo interno litigi, scontri che finiscono in separazione, divorzi, figli da una parte, figli dall'altra, fatiche terribili, relazioni difficili, disinnamoramenti, amanti 2, 3, 4, cioè pasticcio infernale. Perché? Perché ci fermiamo qua? E allora se ci fermiamo qua, la nostra potenzialità, la nostra capacità di amare è ridotta. Non c'è niente di strano. Perché la capacità di amare potenzialmente arriva qui, ma potenzialmente, attualmente, si ferma qua. Allora, cosa c'è quando sviluppiamo pienamente la capacità di amare? Appunto, quello che i mistici chiamano i due occhi dell'anima, l'intelletto, questo qua, e il cuore, che vanno insieme. Cioè io capisco le cose nella stessa misura in cui le amo, e amo le cose perché le capisco. Quindi, che significa dire ti amo se io di te non ho capito niente? Cosa amo di te? L'immagine che mi sono fatto, non te. Te potresti anche non esserci, potrebbe essere un altro. Quindi se io amo un'immagine, poi ogni tanto faccio un confronto con la realtà, dico ma questo non mi va, questo non mi torna. Se anche lei fa lo stesso, mica mi ha visto un'immagine di me, quello che gli serve a lei. Lei non mi conosce, io non la conosco, ma soprattutto io non conosco me stesso, so assai chi sono. Ecco, bene, questo è il livello in cui io mi conosco e quindi mi amo. Quindi mi prendo cura di me. Non potrò mai soffrire di solitudine perché sono amico mio, sto sempre con un amico. Chi dice, ma io ho paura di rimanere solo, no amico mio, magari fossi solo. Tu hai paura di rimanere col nemico che c'hai dentro. È meglio che ti metti subito con qualcuno, perché quanto sia nemico tuo, mai sarà come quello che abita dentro di te. Capisci? Ecco perché la paura, terrore della solitudine. La solitudine vuol dire che io torno a casa, chiudo la porta, e magari fossi solo, ma in realtà lì dentro c'è il mio persecutore, che non mi molla. Anche quando dormo, coi sogni. Mentre invece, se esco con un'altra, posso dire, ecco, quella stronza. Però, porca miseria, è fuori. Appena me ne vado, non c'è più per un quarto d'ora. Poi mi ritrovo con il mio carissimo nemico. Allora, se io ho un nemico dentro, lei c'ha un nemico dentro, che cacchio di coppia facciamo? Ma è possibile che non capiste cose? Com'è possibile che ci siamo ridotti così? ci siamo ridotti così. Allora, questo è il potenziale, io credo, in questa stanza c'è qualcuno che non lo vuole, che ci riunicerebbe facilmente? Io non credo. Se fosse così, chiamiamola neurodeliri. Abbiamo subito una diagnosi fatta. A me non interessa capire chi sono, capire chi sono gli altri, non mi interessa amare me stesso, non mi interessa amare gli altri, perché io sono interessato solo, che ne so, all'informatica. E vabbè, benissimo. Sei un essere speciale, va bene, ma gli esseri normali, comunissimi, sono fatti così, cioè vorrebbero essere fatti così. In realtà non sono fatti così. Guardate come sono fatti. C'è il cuoricino da una parte, c'è l'intelletto dall'altra, belli separati. Così che, quando amano una persona, non la capiscono, e gli sta anche antipatica magari, però dicono di amarla. Cioè, guarda, tutti dovrebbero fare un tiro, se io fossi legislatore, direi, prima di sposarti devi fare il terapeuta di coppie per un anno. Se reggi e ti puoi sposare dopo, ti do il matrimonio, se no non lo fai, perché dopo non vieni a rompere le scatole a me psicologo o a me avvocato, perché ti devo garantire prima. Vai a vedere cosa sono le coppie. C'è gente che dopo 30 anni non conosce nulla dell'altro. La prova sapete qual è? Lei, la moglie, mi dice qual è il problema. Dopo un po' gli dico, signora, lei mi ha detto questo, questo e questo e questo. E l'altra fa, sì, è proprio così, così. E poi mi ha detto questo e questo. Sì, sì, sì, proprio. Vedo, guardo l'altro e l'altro fa. Vado dall'altro, mi parla, dice, quindi lei vede così, così. Sì, sì, sì, vede così, così. Dopo un pochino si è perfettamente d'accordo. Guardo l'altro e fa. Allora gli dico, ma scusate, vi siete mai visti prima di ora? Sono 5 minuti che vi conosco. 5. Cosa vi è successo per cui c'è un muro? Cosa c'è il muro di Berlino? È caduto nell'89 il muro di Berlino. Nell'89. Sono passati un po' di anni, no? 16 anni, quanto è passato tanto, no? Di più. 26. Ecco. Allora, quando siamo messi così, e lo siamo quasi tutti, siamo pronti ad andare in psicoterapia. Allora io mi chiedo ai miei colleghi psicologi, perché se la pigliano coi counselor, che dico che gli portano via il lavoro, ma com'è possibile? C'è pieno di lavoro, pieno ovunque, vai in tramvai, te ne prendi 50, te li seguono tutti, se hai un minimo di cervello. Vai al bar, dopo un po' te ne vengono 20, perché sono tutti pieni di casini. Non c'è problema di quanti psicologi sono, ce ne vuole uno ogni palazzo. Il problema è che anche lo psicologo ha bisogno di psicologo, perché è malato anche lui. Per uscire fuori da questo bisogna andare da qualcuno che non... bisogna andare qui. Cioè bisogna andare dai veri maestri. Ne cito alcuni. Penso che qualcuno di voi, anche se non è cristiano, riconoscerà che Gesù aveva una certa intelligenza o no? Ecco, una certa capacità di comprendere gli esseri umani ce l'aveva. E anche il Buddha non era male, Confucio nemmeno, insomma ce n'è, ecco, senza stare a troppe... Allora ci sono dei ma anche Epitteto, Socrate, ce n'è di persone sveglie, non tantissime, però ce ne sono state. Bene, tutte queste persone avevano un cervello uguale al nostro. L'unica differenza è che c'erano dei programmi un po' diversi, cioè dei programmi più sofisticati, più intelligenti. Cioè, avevano fatto questo lavoretto, questo. Guardate, quando uno è qui sotto, il problema suo è uno solo, che c'ha un pezzo qui, un pezzo qui, un pezzo qui, un pezzo qui, un pezzo qui, che sono divisi. Cioè le persone normalmente sono corrotte, non sono integre. C'hanno parti che non conosco di sé, una che vuole una cosa, e un'altra che ne vuole un'altra, e un'altra che ne vuole un'altra, e così via. E non c'è un governo centrale che sappia indirizzare queste forze in una direzione coerente. Quindi quando una persona così ti dice sì, non puoi sapere nulla. Gli devi sempre chiedere, scusami, ti chiami Giorgio, no? Ti chiami Giorgio. Mi hai detto sì, va bene. Ma siccome di Giorgio ce n'è 5, quale ha detto sì? Giorgio 1, 2, 3, 4, 5? perché se l'hanno detto tutti e cinque, caso rarissimo, è sì. Se me l'ha detto il giorno 1 vuol dire sì e 4 no. Allora, il discorso dell'incoerenza è normalissimo negli esseri umani, normalissimo. Ma questa non è salute, questa è ancora formazione di un giovane adulto, di un bambino. Il bambino può essere incoerente, certo. Avete mai visto che un giorno vuol fare ferroviere, il giorno dopo vuol fare l'astronauta, poi vuole fare pompiere? Se lo fa un bambino, ok. Se è un adulto, tuo marito, no, torna a casa e ti dice, guarda, ho deciso, lascio la banca. Dici tu, che dice, la banca mi dà, non mi piace, ma almeno... Dice, vado a fare l'entreneuse. Lui ci tiene, tu lo ami, dice, vabbè, fai fare l'entreneuse. Dopo che si è comprati i vestitini, dice, butto via tutto, perché faccio il pescatore. Dice, ma di professione? Sì, professione. E ci va a comprare cosa. Poi dice, no, la pesca mi ha proprio stufato, non c'è manco andato, ma gli sei già stufato, voglio fare il giocatore d'azzardo. Allora, se tuo marito fa così, la fai una telefonatina alla Neurodeliri? Ecco, ce l'hai il numero? Ecco. Ora, le persone di solito non fanno così solo per vergogna, ma dentro lo pensano. Ma io vi posso, guarda, quando uno fa il terapeuta ne conosce di quelle che poi dopo li conosce gli esseri umani, non li rompe. Cioè io conosco persone che si sono sposate, che il giorno prima sono andate con un'altra che era la migliore amica di quello lì, della sposa, e anche il giorno dopo. Però quello dal prete ci è andato a dire non è da, per tutta la vita, sì, ma ha ragione, perché chi ci è andato? Ci ha andato Giorgio 1, Giorgio 2, non c'era lì quando ha detto sì. D'altra parte, l'Adelaide, che ha detto sì anche lei, c'era una parte di lei, la parte 2, che dice, ma questo stronzo, perché te lo vuoi sposare? L'altra gli dà un cazzotto in testa, perché se non ti sposi questo, poi non ti sposi nessuno, e gli fa dire sì. Però dentro c'è un no grande come un palazzo, quindi anche lei è disonesta. Ce n'è uno solo, due ce n'è. Perché se no poi arriva Adelaide in terapia, e mi è successo questo, non lo sapevi? No, ma tu ce l'hai un inconscio o no? Sì, e allora lo sapevi. L'inconscio sa tutte queste cose, voi che attraverso i sogni si sanno tutti, vuoi sapere come se ti va bene sposare quello? Guarda che cacchio di sogni fai, però nessuno ci pensa, perché l'inconscio nei sogni rivela le parti di noi che non vogliamo vedere, perché Dio ci conviene. Allora, visto che siamo conciati così, che ci siamo divertiti 2000 anni dopo il cristianesimo, è così, ma non possiamo più divertirci ancora molto, perché stiamo distruggendo la terra. Capite? Abbiamo distrutto quasi tutta l'habitat naturale. Stiamo producendo un sistema economico finanziario che fa pietà. Non c'è posto per i bambini nel futuro, non c'è più posto di niente. Sto anticipando quello che succede in Grecia, è tremendo. Ma quello che è successo in Africa è molto peggio, no? Allora, sarà il momento di risvegliarci e dire, ma vogliamo fare sto salto evolutivo di umanità? Vogliamo renderci conto che finché siamo a questo livello non siamo affidabili? Non abbiamo nessun diritto a dire un politico sei corrotto, perché chi dice così lo è anche lui, perché l'ha fatto con sua moglie, con i suoi figli, con tutto. Cioè, capisci? Allora la corruzione non è qualcosa di esterno, la corruzione è la frantumazione interna della psiche. E i politici non fanno altro che farci il favore di farcela vedere così grossa che un giorno ci svegliamo, capite? Perché se non fossimo corrotti non saremmo così stupidi da distruggere la terra su cui siamo, e non è possibile. Non metteremmo le nostre fortune nelle mani dei peggiori delinquenti che ci sono al mondo di oggi. Sapete che a Wall Street chi beccano come veramente funzionari alti di Wall Street? Solo persone malate di mente che non hanno empatia per gli altri. Sono una malattia mentale. Ci mettono quelli. Allora noi siamo ancora qui in questa sala, tranquilli, seduti, sapendo che a Wall Street, dove si decide se fare la guerra in un posto o in un altro in base ai finanziamenti, queste decisioni vengono fatte da persone che è pericoloso incontrare in ascensore, che non ci potresti cenare perché ti vai attraverso la cena. Sono persone così, cioè purtroppo malati di mente. Quante imprese sono dirette da malati di mente, psicopatici? Ecco. Allora, capite, il tema oggi è: l'umanità è pronta a riconoscersi, guardarsi allo specchio e dirsi forse sarebbe meglio fare qualcosa? Forse questo momento sta arrivando, perché guardate, l'umanità ha provato a fare sempre rivoluzioni. Sapete come sono andate? Prima governavano degli stronzi, e dopo sai cosa è successo? Quelli non c'erano più, ce n'erano degli altri. Questo è il risultato. Allora oggi dobbiamo fare uno sforzo e dire cosa si può fare. Cominciamo a guardare dentro di noi, cominciamo a tenerci per mano con i nostri simili, a dire guarda che in fondo io e te qualcosa in comune, abbiamo un cervello malato, ecco, quindi dobbiamo curarci, dobbiamo prenderci cura di noi, avere molta compassione di noi stessi e degli altri, molta benevolenza, e creare piccoli gruppi di lavoro in cui ci si capisce, ci si comprende, si comprendono le nostre dinamiche più profonde e si costruisce comunità. Perché vedete, io non credo ci sia sogno più bello di immaginare che voi adesso uscite, andate a casa vostra, trovate una famiglia adorabile con dei figli fantastici, con dei vicini di casa magnifici, che se vi ammalate sono pronti ad aiutarvi, che se perdete il lavoro dice vabbè, questo periodo ti do una mano io. Ma scusate, ma un essere umano non è in grado di far questo. Ma se uno non è in grado di far questo, non è umano. Perché io dovrei aver paura di perdere il posto di lavoro? Se lo perdo io, qualcun altro mi aiuta, se siamo umani, no? Perché può succedere a tutti. Se mi succede una disgrazia, qualcuno mi aiuta, come io aiuto un altro che ha una disgrazia. Invece noi oggi siamo diventati indifferenti. Ecco, sapete il bel libro La morte del prossimo, di Luigi Zoia, dove proprio chiarisce questa deriva individualista che i giovani subiscono in modo gravissimo. Bene, vi ho parlato di questo per dire, voi qui siete in un territorio che è particolarmente favorevole, perché avete un dirigente che per me è un extraterrestre, probabilmente non è umano, che sta facendo quelle mosse che bisognerebbe fare in tutti i distretti scolastici. Bisogna approfittare di questa condizione e creare comunità. Cosa vuol dire? Vuol dire entrare in un'altra logica di vita, capire che i valori non sono quelli materiali, una macchina di più, una casa di più, una villetta di qua, oppure che noi possiamo vivere molto bene anche se siamo sobri, perché conta molto di più avere relazioni sane, d'amore, con i nostri più cari e con le persone vicine. Comprarsi qualche mobiletto dell'IKEA in meno, che non servono a niente, poi oltretutto spesso sono difettosi, oltretutto si rompono, ma che ce ne importa? Cioè mia zia, per esempio, ha vissuto in una casa, mi ricordo che la sua cucina era un capolavoro, ci fosse stato Morandi, pittore come Giorgio Morandi, oppure non sarebbe più uscito da quella cucina. E mi ricordo da bambino che guardavo incantato la cucina di mia zia, c'era una stufa nel centro, fatta così. Pendevano dei fili da cui erano attaccati degli attrezzi, c'era un attrezzo da giardino, un po' più là c'era un tubo che perdeva, sotto c'era un pentolino bucato, anche lui, che poi un po' più là c'era una ghiacciaia che non serviva più come ghiacciaia. Oggetti più imparati, ma era una poesia quella fine. Macchie sul muro, che per me erano dei quadri. Entravo lì dentro, capolavoro. Adesso, entrate in una cucina moderna, una sala operatoria, asettica, tutto perfetto. I schiacci, si altro che, sembra che tutto così, talmente freddo. Le avete viste certe donne da copertina? Per gli uomini sto parlando. Ma le avete viste bene? Ma chi di voi avrebbe il coraggio di passarci una sera insieme? Che sono gli idoli di oggi, eh? Delle donne spaventose. Di una freddezza. Ma nemmeno un gorilla riesce a rizzarsi con una persona. C'ha paura che gli uomini... Cioè, sono talmente sadiche, violente, che uno dice, ma questa è una donna... No, non può. Ma adesso però una donna, se ha una rughetta, si comincia a preoccupare, capisci? Ma preoccupati di non diventare come quella là. Quello sì che è un problema. Perché i maschi se ne vanno, vengono con te solo perché si fanno dei soldi. Ma sei matto? Ma sei pazzo? Due rughette, due cose. Ma scusate. Ma la bellezza cos'è? L'esteriore, quella della forma perfetta? Siete mai andati a guardare un albero? Provate a dire: quest'albero non mi piace, perché c'ha il ramo così. Ma se lui vi potesse rispondere, ti direbbe: ma tu sei scemo, io sono fatto così e sono perfetto così. Se lo vate a dire a un gatto, ti dirà: beh, sono il miglior gatto che c'è, fatto come me, perché come me ci sono solo io. Ogni gatto è perfetto. Adesso quanti giovani, quanti mica giovani, hanno tutti questi problemi, che c'ha questo problema qua, che c'ha la cellulite, che c'ha questo, c'ha quella. Ora è chiaro che se uno è grosso così, vuol dire che ha mangiato, o ha una disfunzione, o ha mangiato cioccolatini infiniti, insomma, voleva dare tanti soldi all'industria dolciaria, va bene, si può capire, però gli fa anche male alla salute. Ma tutta sta mania per i difetti fisici indica quanta poca attenzione mettiamo alla bellezza profonda che c'è nelle persone. Guardate, c'è una bellezza esteriore e c'è una bellezza interiore. La bellezza interiore può essere in chiunque. Ci sono degli occhi che guardano in un modo che sono meravigliosi. Ho visto degli anziani che hanno degli occhi incantevoli e dei giovani che hanno degli occhi che fanno paura. Bisogna essere delle iene per reggere certi sguardi. Io spero di avervi dato qualche indicazione, qualche più che altro qualche curiosità, così magari andate a vedere il nostro sito dove metteremo molte cose, perché abbiamo i ragazzi giovani che lavorano con noi e ci hanno più entusiasmo di me, non ne hanno di meno, ci hanno proprio tanta voglia di fare. E quello che stiamo per fare insieme a loro è un'università. La stiamo facendo già, di che non sia più di medicina, di questo, di quell'altro, ma sia un'università della nuova umanità, dell'umanità che si riconosce in questi valori qua. Un'università dove si va per capire chi siamo e imparare ad amare noi stessi e gli altri. Questa è la prima cosa. Poi può darsi che fai l'ingegnere o che fai il fisico o che fai il portinaio, ma conta molto meno, perché io posso essere totalmente felice anche se faccio portinaio e completamente infelice se faccio l'ingegnere capo di non so quale stabilimento. Se no è importante che aiutiamo i giovani a capire quali sono i valori umani, perché se no, poverini, sono giovani, non lo sanno, si fanno prendere in giro da questi qua. Questi sono finiti. Ecco, ancora peggio dei grandi, i giovani subiscono questo, che è questo. Cioè il potere dei soldi che deformi la mente umana e renda privo di ogni valore le qualità umane fondamentali. La capacità di amare, la generosità, la dedizione alla verità, quelle cose che se un essere umano ha, tu hai piacere a stargli vicino, perché lo senti amico, perché senti che ti puoi fidare, perché senti che con questa persona potresti viverci. E non i valori esibiti della materialità, la bella casa, la bella macchina, il bel vestito, bel pettinatura, bel profumo. Ma che sono cose in più, se vogliono, ma sono irrilevanti ai fini della felicità. Noi abbiamo completamente perso la strada, perso l'orientamento. Allora abbiamo bisogno di dare ai giovani una visione diversa. Devo dire che gli esperimenti che abbiamo fatto fino adesso sono incoraggianti. Sono arrivati da noi dei giovani che erano disperati. Non sapevano proprio che fare. O non aveva lavoro, lavori a 300 euro al mese, prospettiva zero, possibilità di farsi una casa zero, una famiglia zero. Ma è così che noi possiamo lasciare dei giovani? Ma con che coraggio? E allora ci vuole uno sforzo per capire come mai ci siamo ridotti così e creare delle comunità che facciano resistenza, non armata, la resistenza proprio della forza, della capacità di pensare in modo nuovo. I maestri, l'umanità ce l'ha dati tutti, c'è tutto, noi non abbiamo bisogno di imparare niente. Ci sono già tutti gli insegnamenti, dobbiamo solo applicarli. E con questo pensiero che possiamo avere una famiglia magnifica, un amore grande per noi stessi, ma pensa, vi dico, io sono una persona che ha fatto enormi errori nella vita, ho sbagliato facoltà, ho sbagliato tutto, tantissime cose. E uno degli ultimi errori che ho riconosciuto è che io mi sono ammalato di fegato col tempo. Ma ero da piccolo già così, ero predisposto, no? Mi vedete che sono un po' come sofferente, lo sono. E ho scoperto recentemente quanto sono stato cretino. Ma quanto stupido, non ci potete credere. Io tenevo dei corsi alle persone e credevo di sapere, invece ero un grande ignorante. Non mi rendevo conto che quando questo mi cominciava a far male, io me la prendevo, mi arrabbiavo, dicevo che non avrei dovuto averlo. Ma se ce l'ho, vuol dire che delle cause ci sono. E sai che le cause quasi dove sono? Qua. Però io sono diventato psicologo, ho insegnato all'università. Ma che cosa conta se io non sono manco capace di gestire un corpo come fa un gatto? Sono meno intelligente di un'ameba incazzata simile a una fa. Allora, siccome so quando mi sono fatto io, e ho visto anche come sono fatti gli altri, vi dico, ci vuole umiltà, riconoscere i propri errori. E adesso mi sto curando finalmente. Qualunque, io sono andato a 100 medici, ho sempre fallito. Non c'era nessun medico che capiva quello che succedeva. Io, per varie ragioni che non vi posso spiegare, rapporto che avevo con mio padre, che mi indicava sempre mete più alte, dovevo sempre fare. Non mi rendevo conto che non ricaricavo mai le batterie. Se non ricarichi le batterie, a un certo punto qualche organo la patisce. E ancora recentemente teorizzavo di fare la vita giusta. Quindi adesso posso dirmi, mi sono comportato proprio male. Questo in Oriente si chiama karma. La legge del causa-effetto. In parte si è comportata male mia madre, era una persona ansiosa, ha ricevuto ansia, ma comportata male oggettivamente, senza colpa. Siamo meccanici. Io non mi sto mica attribuendo la colpa, sto dicendo che era ignorante. Vedete, tutto quello che abbiamo, le azioni, pensieri errati, producono malattia, o qui. Per esempio la medicina di oggi è catastrofica. Perché si occupa degli aspetti esteriori, ti tocca qua, vede qua, ma non ti va mai a chiederti ma che vita fai, che scelte fai, ma sei coerente, ma ti stai comportando bene, stai amando profondamente chi sei, ti sei conosciuto. Il medico queste domande non ve le fa, qualche sì, ci sono, ma pochi, ma sono fuori, non viene insegnato questa medicina, ma sono le prime domande. Nei nostri corsi scopriamo persone che si odiano, hanno odio di se stessi, sono nemici di sé, tante persone. Quindi vuol dire che noi proprio facciamo gli errori catastrofici, siamo condizionati a diventare deboli, fragili. Questo è funzionale a questo sistema qua, capite? Perché se io sono fragile, debole, malato, mi faccio condizionare molto facilmente. Se io sono sano, diavolo, questa è la novità. Dietro. Se io sono questo, se sono qua, io mi accorgo di cosa sta succedendo e non ci casco in questi tranelli. Nessuno mi può mentire, perché lo riconosco. Se sono qua, io mento e gli altri mentono. E questa è la continua falsità che c'è oggi. Io credo che tutte le persone che sono in questa sala amerebbero poter fare questo, ed è alla portata di tutti. Ci dobbiamo aiutare, questo sì. Dobbiamo avere fiducia, aprirci agli altri, fare le pratiche che ci sono oggi, che si possono imparare. E questo dà non una speranza, direi una certezza che il futuro c'è, ed è bello. Perché l'umanità ha lavorato molto, molto, c'è un'umanità realizzata che ha lavorato molto per creare questa possibilità. Guardate che Gesù se n'è andato dicendo, io me ne vado perché è bene per voi. È bene per voi che io me ne vada. Voi farete miracoli più grandi dei miei. E non era uno che stava dicendo menzogne. Ecco. Bene. E con questo ci fermiamo.